Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Vuole il resto o gioca alla lotteria? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questa è la domanda che presto potremo sentirci rivolgere alla cassa del supermercato. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Per la grande distribuzione parleremo anche di code e di come gestirle a vantaggio dei consumatori e per il focus sui trend di walking style, quando camminare fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Addio al rito della spesa quotidiana. Oggi più di 6 italiani su 10 fanno la spesa con frequenza settimanale. È quanto emerge dal rapporto Coldiretti Censis sulle abitudini alimentari degli italiani. Risultato: meno tempo ma più sprechi. 72 passerelle, 151 collezioni. Prosegue fino a martedì 1 marzo Milano Moda Donna. Oltre alle sfilate per la moda autunno-inverno 2011-2012, centinaia di eventi, incontri e mostre, incluso un défilé in metropolitana. A New York si è aperta la disputa di San Gennaro. Gli atelier di Little Italy, la zona dove si svolge la festa di settembre, hanno chiesto al sindaco Bloomberg di limitare il perimetro delle celebrazioni perché i partecipanti entrerebbero nei negozi con le mani sporche di zeppole, macchiando vestiti e borse. I membri italo-americani del Consiglio Comunale sono sul piede di guerra per difendere una tradizione che va in scena da 85 anni. Made in Italy, griffato low cost. OVS sposa la formula H&M e affida a Ennio Capasa di Costume National la collezione Equal. Per il quinto anno consecutivo, Vancouver è stata eletta la città più vivibile del pianeta. Nella tradizionale classifica stilata dall'Economist, la terza città del Canada precede Melbourne e Vienna, unica città europea insieme ad Helsinki, sesta. Ha aperto a Bologna il primo locale a spreco zero. Alce Nero Caffè è certificato da Last Minute Market, società spin-off dell'Università di Bologna, che sviluppa progetti per il recupero dei beni invenduti a favore di enti caritativi. La borsa della spesa. Attenzione! Vince i 5 miliardi della lotteria di Capodanno il biglietto serie Z numero 01717. Lo ripeto, biglietto serie Z numero 01717. Quale casa starà festeggiando? Ho vinto! Ho vinto! Le lotterie tradizionali ormai si sa sono in crisi. Anche la Lotteria Italia, protagonista del titolo della commedia cult anni 80, vende sempre meno biglietti. Nel 2010, pensate, per la prima volta sono scesi sotto quota 10 milioni. È boom invece per le cosiddette lotterie istantanee. Gratta e Vinci, Win for Life, Super Enalotto. A questi, tra poco, il via libera della Commissione Europea è arrivato proprio nelle scorse settimane. Potrebbe aggiungersi anche la lotteria del supermercato. Puntata massima 5 euro, una volta arrivati alla cassa si potrà decidere se prendere il resto o tentare la sorte. La giocata dovrà essere legata alla spesa e i registratori di cassa stamperanno la ricevuta. I giochi di sorte al consumo, questa la definizione ai quali ha dato il via libera appunto Bruxelles, erano inseriti nel decreto Abruzzo per destinare parte dell'incasso ai terremotati dell'Aquila. Ma l'iniziativa potrebbe di fatto fare da apripista per una nuova stagione di giochi d'azzardo al supermercato. In attesa di conoscere i regolamenti che saranno definiti dai decreti attuativi, le catene si stanno già muovendo? Sentiamo cosa ci ha detto Stefano Crippa di Federdistribuzione. Devo dire che in questo momento tutte le aziende sono ancora impegnate in una prima fase di analisi per capire se e come poter dar seguito a questa nuova possibilità. Credo che una valutazione più conclusiva si possa fare soltanto tra qualche mese, quando si sarà appunto potuto fare qualche ragionamento ulteriore. In molti fanno già notare che uno degli ostacoli potrebbe essere costituito dai registratori di cassa, che dovrebbero emettere la ricevuta della giocata connessa alla spesa. Sì, questo effettivamente è un problema che deve essere affrontato e in qualche modo risolto, perché ormai sono quasi 2 anni che le nostre casse non sono più dei registratori fiscali, quindi bisognerà pensare come affrontare dal punto di vista proprio organizzativo questo tema per le aziende che intenderanno affrontare questa nuova sfida. Molta prudenza dunque, abbiamo capito, ma i consumatori cosa ne pensano? Nel nostro paese, fra i primi nel mondo per spesa pro capite destinata al gioco d'azzardo, c'è bisogno di una nuova lotteria istantanea? Lo abbiamo chiesto a Pietro Giordano, segretario nazionale Adiconsum. Pensiamo che sia una cosa gravissima, perché già i soldi che si drenano rispetto alle lotterie ormai sono soldi che hanno una quantità enorme, che inducono una sorta di dipendenza. Ormai famiglie rovinate dal punto di vista del gioco ce ne sono tantissime e non sono più come un tempo le famiglie che avevano un reddito alto, ma anche strati popolari vengono, come dire, coinvolti sia dalla pubblicità sia anche dall'incentivazione, come accade o dovrebbe accadere, speriamo mai, con la vicenda del resto nei supermercati. Noi consideriamo questa cosa gravissima, perché non può essere il gioco che drena soldi anche per lo Stato, perché sappiamo che sul gioco lo Stato drena un bel po' di soldi. Ecco, questa è una cosa gravissima che indurrà anche fasce sempre più larghe al gioco, anche chi fino adesso non è stato contaminato. Sta diventando un'escalation, l'avevamo visto in occasione dello smercio, diciamo così, dei biglietti di Lotteria Italia negli autogrill. Anche se non era regolamentato, spesso le cassiere dell'autogrill incentivavano questa vendita. Lo stiamo vedendo ormai nei supermercati, che anche se non è regolamentato e ancora non è un passo in avanti, è già un piccolo passetto verso quella cultura del gioco che noi non accettiamo assolutamente, perché il gioco, la stessa parola lo dice, dovrebbe essere un fatto gioioso. Qui diventa una malattia, non un fatto gioioso, diventa un rincorrere con tutto ciò che ne consegue, perché ormai anche i costi sono enormi. Sembra poco, ma un gratta e vinci 5-10 euro, 3 gratta e vinci sono 30 euro, 15-30 euro, spesso significa la mezza giornata o la giornata di una lavoratrice o di un lavoratore. Restiamo al supermercato, ma facciamo un passo indietro. Alla cassa non ci siamo ancora arrivati, siamo in coda. Punto dolente della spesa organizzata, la gestione delle code sperimenta soluzioni interessanti. Ce ne parla il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Chi di noi ama stare in fila, alzi la mano. Siccome non vediamo mani alzate, vi raccontiamo allora due storie di marketing su come due negozi, uno di una grandissima marca, l'altro della grande distribuzione, hanno affrontato il problema delle code. Il primo è Nespresso, brand di alto di gamma del gruppo Nestlé. Il loro prodotto è sì di nicchia, ma anche quotidiano. Molti clienti se lo fanno recapitare a casa proprio per non incorrere nelle file che il sabato e la domenica sono lunghe ovunque. A Parigi hanno allora pensato di farle evitare almeno agli iscritti al club. Il cliente fa il suo ordine via internet o via telefono, paga e poi si reca nei due negozi bandiera del loro amato caffè, all'Opera o sugli Champs-Élysées, e ritirano i tubi di capsule desiderati in uno spazio appositamente allestito per loro. E ovviamente saltano la fila. Carrefour, catena di ipermercati presente in Francia e in Italia, sa bene che anche i suoi clienti non tollerano di fermarsi un minuto in più nella sua grandissima superficie. Le ricerche di mercato anzi dicono che molte volte sono pronti ad abbandonare il carrello con la spesa già fatta se la coda è lunga. I dirigenti di Carrefour hanno allora tratteggiato per terra una linea blu proprio davanti alla barriera casse. La coda supera la linea blu, si apre immediatamente una cassa senza neppure chiederlo, automaticamente. Sono due piccoli espedienti che hanno però un valore strategico e organizzativo molto alto, e la rivincita del cliente e del suo tempo libero. Essere e avere. Oh! Radio con Essere Avere abbiamo scelto la bellissima Walk On degli U2 per introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana, tutto dedicato al cammino, alla camminata, al camminare, walking style appunto. Vogliamo cioè fare il punto su quello che da consiglio salutista per eccellenza è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, simbolo di nuovi stili di vita e di consumo. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dai contapassi alle scarpe con GPS, dai viaggi a piedi alle guide ad hoc per percorsi urbani. Precetto numero uno per medici e ambientalisti, camminare è diventata ormai una vera e propria mania, fatta anche di prodotti e servizi dedicati. Patrizia. Oggi parliamo sì di camminare, di piedi, di scarpe e di lentezza, che da condizione di lusso sta diventando una nuova necessità, oltre che un'opportunità appunto di buonsenso sostenibile e salutistico, sia per gli individui che per le società. Cominciamo con le scarpe, quelle con GPS e Bluetooth incorporati, alimentati dall'energia cinetica prodotta mentre si cammina, che ci dicono vibrando dove andare. Si chiamano Green Walk e sono progettate dagli studenti cinesi della Tongji University. Le città sono e saranno sempre più aumentate, cioè piene di link e di mappe digitali, e le scarpe con questi semplici sensori e segnalatori vibranti potranno guidarci e confermare il nostro percorso. Come per ogni device, vedremo se queste calzature sapranno dimostrare sul campo la loro usabilità e intelligenza, se saranno cioè delle scarpe smart. Una nuova tipologia di calzature, un'altra, le scarpe cosiddette tonificanti, da pochi anni sul mercato soddisfano l'esigenza di chi, per pigrizia o per mancanza di tempo, sfrutta i passi quotidiani, che appunto sono anche molto pochi, tanto che addirittura li contiamo con i contapassi, potenziandone gli effetti sulla muscolatura. Categoria inaugurata dal marchio svizzero MBT, sono le scarpe basculanti, quelle che ci fanno dondolare su una suola a mezzaluna, che continuamente ci fa cercare un equilibrio quando siamo fermi e ci fa usare più intensamente, a parità di falcata, la catena muscolare posteriore, tonificando quindi polpacci, retrocoscia e glutei. Sono molti i marchi che hanno proposte simili, da Dr. Scholl con Starlit, a Geox con le Energy Walk, a Reebok con Easy Tone. Il caso della scarpa che si vede ma non c'è è altrettanto noto. Si chiama Five Fingers, del marchio Vibram, 5 dita. Sono scarpe che si calzano come guanti, e come non averle, come camminare scalzi, un'opzione tra l'altro che ormai nelle nostre società abbiamo per qualche giorno all'anno in vacanza e a volte per qualche minuto nei brevi transiti domestici. Il target sono i runner e gli sportivi, ma non solo. A corredo dei walking lifestyle, una pletora di contenitori pensati per trasportare a piedi qualsiasi cosa, dalle borse portafiori recisi come flower bag ai contenitori portacuccioli, soprattutto cagnolini di piccola taglia, che vengono trasportati ovunque e camminano loro solo in casa. A metà tra contenitore e supporto, un oggetto di good design, il design che aiuta la vita, si chiama Carry Na della Takano Heartworks Company. È una specie di trolley, però si spinge in avanti, non si trascina, e funge anche da appoggio e sostegno perché stabilizza la postura e la camminata, e all'occorrenza, questa è la cosa interessante, diventa una seduta su cui riposare. Vero supporto questo per anziani stilosi, i bastoni da passeggio dal design di ispirazione scandinava del marchio americano Omu. In 6 colori, leggeri, in materiali naturali, non scivolano quando si appoggiano al muro. E un marchio che ha fatto della parola camminare, walk, e del mondo immaginario dell'andare a piedi, del pensiero meridiano, il suo posizionamento e il suo grande successo, Camper, che ha appena aperto un nuovo monomarca a Miami. Piedi nudi stilizzati decorano le pareti all'insegna del foot lifestyle, come si legge, che continua ad essere un concetto fortemente attraente per i consumatori fan di questo marchio spagnolo. Lasciate a casa le auto, usate i mezzi pubblici e camminate di più, ci dicono le regole della nuova mobilità verde. Preparatevi però a fare i conti con la sindrome dei pedoni arrabbiati. Everybody's talking at me. Colpa di auricolari, telefonini e gadget elettronici vari, i pedoni a New York sono sempre più distratti. Lenti e sbadati ostacolano il cammino di chi ha fretta, che cade vittima della sindrome dell'aggressività. Riservata per decenni agli automobilisti, ora, dicono gli psicologi americani, contagia anche i pedoni. La road rage, la rabbia stradale che ha fatto nascere decine di corsi di controllo della collera è salita sul marciapiede. Studiando il fenomeno, l'ufficio della pianificazione urbana di Manhattan ha misurato le diverse velocità di crociera su un campione di circa 9.000 pedoni. Si va da un minimo di 1,11 metri al secondo per gli anziani a un massimo di 1,35 metri al secondo per chi sta raggiungendo il luogo di lavoro. Penultimi, per lentezza, i turisti, che procedono di pari passo ai sovrappeso. Nella metropoli di folle camminanti per eccellenza è nato perfino un club di pedoni ultraveloci. La loro pagina Facebook si chiama «Segretamente vorrei prendere a pugni sulla nuca quelli che camminano piano». Un allarme conflitti che il primo a lanciare è stato, con un'inchiesta in prima pagina, il serissimo Wall Street Journal. Patrizia, al di là dell'ironia che abbiamo voluto mettere anche nella scheda, il problema esiste. Gli esperti di mobilità si stanno misurando con queste nuove modalità pedonali. Un gesto artistico proprio a New York ha tentato qualche tempo fa una soluzione a questo problema. Improvvisamente è apparsa una linea continua sul marciapiede della Quinta Strada all'altezza di Chelsea, che lo divideva in due con la scritta New Yorkers dal lato strada, lato macchine, e Tourists, turisti, dal lato vetrine. Una sorta di spartitraffico pedonale che interpreta le diverse velocità ed esigenze appunto di chi cammina, i newyorkesi veloci e senza soste, i turisti lenti, ondivaghi e con sosta vetrina. Sono molto interessanti, al di là delle performance artistiche, i casi di sperimentazione di nuove modalità di mobilità urbana proprio all'insegna della convivenza tra mezzi e pedoni, con maggiore attenzione e priorità di precedenza per questi ultimi. Dal 2008, per esempio, a Toronto sono in funzione degli speciali semafori sincronizzati in modo da fermare le macchine in tutte le direzioni contemporaneamente e consentire quindi ai pedoni attraversamenti anche diagonali accompagnati da strisce ergonomiche ad hoc. Quindi maggiore sicurezza, maggiore agio per chi cammina, e sappiamo che anche i semafori verdi di New York sono stati allungati di qualche secondo proprio per favorire le categorie cosiddette lente di chi va a piedi. Interessante anche la classifica delle città più camminabili. È stilata da walkscore.com, un servizio online che calcola la camminabilità non solo delle città ma anche delle singole zone urbane. Si inserisce un indirizzo e, grazie a un algoritmo che considera la densità di negozi, di scuole, di parchi, di ristoranti raggiungibili a piedi entro il cosiddetto walk shed, cioè un'area di circa un chilometro quadrato, un miglio quadrato, viene prodotto un punteggio che classifica appunto le zone della città e poi la città stessa. Più di 1 miliardo di punteggi sono stati creati e 6.000 siti stanno usando questo servizio. Nella classifica americana al primo posto c'è San Francisco, seguita da New York e Boston, al decimo c'è Portland, preceduta da Los Angeles. Le città cosiddette pedestrian friendly, quelle amiche dei pedoni, sono anche quelle più eco-friendly, cioè sensibili ai temi della sostenibilità ambientale e in cerca di nuove forme anche di mobilità urbana. Quindi la camminabilità diventa un indicatore di vivibilità. Sono 20 le città americane, ma recentemente partecipa anche Mumbai in India, che aderiscono a Jane's Walks, un progetto nato dal movimento culturale dell'attivista Jane Jacobs a favore delle comunità urbane proprio a misura d'uomo. Il progetto prevede tour cittadini alla scoperta dei luoghi minimi, dei dettagli secondari, delle storie legate ai cittadini comuni, eccetera. E dalle città ai viaggi, nel ricco catalogo di viaggisolidali.it, all'insegna del turismo responsabile dal volto umano, come si legge nel sito, i viaggi a piedi. Circa 40 itinerari in Italia, in Europa e nel Mediterraneo da fare assolutamente a piedi, zaino in spalla con niente di inessenziale dentro, che è anche la metafora e la tonalità di questo stile di viaggio. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra su Walking Style e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Pensiamo appunto a quante persone quotidianamente calpestano i marciapiedi e le strade del mondo. In pratica una quantità di energia cinetica che si disperde inutilmente. Bene, Pavegen è una speciale mattonella capace di convertire in energia elettrica questo incessante movimento. La tecnologia è proprietà della Pavegen Systems, una società società inglese che, in cerca di investitori, ne sta testando l'efficacia per le vie del Regno Unito. Ogni volta che viene calpestata, la mattonella si illumina grazie a un LED a basso consumo, segnalando al passante in questione, che diventa quindi consapevole del suo contributo, di aver appena incamerato la sua energia nella batteria al litio sottostante. Energia che può essere utilizzata immediatamente o stoccata per usi successivi. Si stima che questo sistema sia in grado di produrre circa 2,1 watt all'ora e alimentare così lampioni, insegne e tabelloni luminosi in modo del tutto gratuito e sostenibile. Giusto per fare un esempio concreto, 5 ore di passi in una strada affollata permettono di illuminare una fermata dell'autobus per 12 ore. Le mattonelle possono integrarsi agevolmente sia nella pavimentazione esterna che quella interna. Pensiamo al traffico di persone nelle stazioni, negli aeroporti o nelle scuole. Potrebbero insomma rappresentare una vera svolta nel contenimento energetico globale. Grazie Alessia, da importare subito anche nelle nostre città. Patrizia, in chiusura voglio citare questi dati. Il 15% delle vittime sulle strade italiane sono pedoni, ne muoiono più di 600 ogni anno. La mobilità, e su questo gli esperti concordano, sarà la vera sfida del futuro. Sì, la sfida è questa e la vera scommessa è l'integrazione. Non c'è infatti un'unica alternativa che soppianti gli attuali sistemi di mobilità nelle città. Ci sono forme però appunto di integrazione anche minime tra varie tipologie di mezzi pubblici e privati, e tra questi automobili ma anche rickshaw, biciclette, moto, segway, skate, qualsiasi cosa, e l'andare a piedi. Considerare lo spostamento a piedi come parte di queste nuove pratiche di mobilità integrata, possiamo anche chiamarle a staffetta, per esempio uscire a piedi, usare una bicicletta che poi, se è folding, si può ripiegare in uno zaino, si può prendere un metro o un altro mezzo. Insomma, in futuro necessariamente dovremo fare i conti con forme, non sappiamo ancora quali, ma di ricombinazione dei vari mezzi a disposizione per gli spostamenti, compresi i nostri piedi. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.